La direzione è quella di cercare di trovare un nuovo equilibrio da questo punto di vista, perché è evidente che ci sono fenomeni che si stanno sviluppando, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche allo sviluppo delle nuove piattaforme, molto, molto nuove. Perché parlo di equilibrio? Perché io, avendo la delega al turismo, devo dire che dal punto di vista della ricettività ci sono territori che magari possono anche assolutamente beneficiare da questi nuovi strumenti e queste innovazioni tecnologiche, perché possono, penso alle aree interne, no? Ad esempio anche della nostra regione, penso all'Appennino, penso a molte destinazioni che magari non hanno al momento, no? Una capacità ricettiva particolarmente alta, e quindi anche lo sviluppo di questi segmenti può aiutare tantissimo. Ci sono invece realtà dove questo crea grandi frizioni, lo è nei centri storici, lo è a Bologna sicuramente, ma lo è, guardate, anche nella costa romagnola, dove una non corretta gestione di questo fenomeno può creare anche diverse criticità a un consolidato sistema ricettivo turistico alberghiero esistente, che quindi va assolutamente tutelato e preservato. Gli obiettivi che ci diamo come Regione Emilia-Romagna sono quelli di cercare di disciplinare la materia, una materia assolutamente complessa, con lo spirito di dare ai comuni delle possibilità di fare le scelte migliori per i loro territori, proprio perché la regione è molto diversa e variegata. Abbiamo bisogno di accompagnare questo percorso tenendo conto ovviamente delle diverse esigenze, ma non sottraendoci alla necessità di dare delle risposte dove ci sono evidenti criticità, che anche il mio collega Giovanni Paglia ha appena sottolineato, soprattutto sul fronte della possibilità poi di trovare casa con tutte le conseguenze che ci sono anche per lavoratori e studenti. E badate bene, anche per il settore turistico, in molti casi questo può essere un problema, perché se poi anche gli stessi lavoratori, per esempio, di un settore turistico non trovano disponibilità di alloggio, diventa anche questo un problema per la stessa industria turistica. Ecco, questo è un po' lo spirito e l'obiettivo del provvedimento. In termini concreti, come pensate di riuscire a fare questo? Noi partiamo adesso a brevissimo con l'avvio di un tavolo di confronto molto ampio e allargato da tutte le categorie, alle diverse rappresentanze, agli enti locali, ai sindacati, alle associazioni di categoria, perché abbiamo bisogno di ascoltare, proprio perché la materia è complessa e ampia, le esigenze, le necessità diverse sia dei territori che degli imprenditori, dei lavoratori. Abbiamo in mente quello che vogliamo fare, ovvero dare la possibilità ai comuni, come dicevo, di essere in grado di poter fare delle scelte, scegliere quello che è meglio per il loro territorio, per disciplinare un ambito che al momento purtroppo manca. Di una disciplina nazionale che, a nostro modo di vedere, sarebbe assolutamente necessaria, ma non ci possiamo sottrarre da questo punto di vista, e come regione abbiamo assolutamente il dovere di trovare e far sì che i comuni possano trovare delle soluzioni per accompagnare. I comuni, guardate, stanno facendo tantissimo, stanno cercando di fare tutte le verifiche, i controlli, i monitoraggi del fenomeno e anche andare a verificare le situazioni che magari non operano nella legalità. Questo ovviamente è il loro dovere, ma lo fanno con un carico di lavoro enorme. È veramente un'impresa molto complicata poter essere, no, su ogni singola situazione e partecipi, ma lo stanno facendo. È un lavoro che sta già dando i suoi frutti. Abbiamo visto il Comune di Bologna, per esempio, quello che sta già ottenendo, frutto di un protocollo, tra l'altro, di lavoro che ha fatto anche con le categorie. Altri comuni lo stanno facendo. Noi come regione dobbiamo cercare di dare tutti gli strumenti possibili, in questo caso uno strumento normativo, che consenta ai comuni di fare le loro scelte ed essere anche il più efficaci possibili nei controlli. Chiedo, la regione è comunque libera rispetto alla legislazione nazionale di legiferare? La regione, ovviamente, ci muoviamo in quelle che saranno le competenze possibili di una regione nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale. Questo è il nostro dovere, i nostri uffici lavoreranno su questo, e negli spazi che alle regioni sono consentiti, in questo caso la regione Emilia-Romagna è consentita, noi troveremo le formule per fare quello che serve per accompagnare appunto le amministrazioni locali.